giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In consiglio a Trieste prosegue il confronto sul futuro di Porto Vecchio, indagine di Confcommercio tra gli iscritti. Protocollo sicurezza per il parco Querini vicino alla stazione di Pordenone, finanziamento da 44.000 euro. 286 kg di ricci di mare sequestrati da Capitaneria di Trieste e Finanza erano diretti in Italia meridionale. Un porto diffuso tra la romana Aquileia e Grado, l'Università di Udine svela l'isola d'oro di 2000 anni fa. Il giubileo straordinario di Ara di Tricesimo per i 100 anni della posa della prima pietra della chiesa parrocchiale. A Lignano il romanzo postumo del campione di salto in alto Talotti, un giallo ambientato alle Olimpiadi di Parigi. 12:31 minuti, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. Prosegue nell'aula del Consiglio Comunale di Trieste il dibattito sulla proposta di project financing avanzata da privati per la rigenerazione di Porto Vecchio. Confronto serrato e acceso tra maggioranza e opposizione, iniziato ieri, che andrà avanti sicuramente per altre 24 ore. Intanto la Confcommercio di Trieste proprio su quest'area ha lanciato un sondaggio ai propri iscritti immaginando una città ideale con opportunità piuttosto ambiziose. Una decina di giorni fa, via newsletter, a oltre 1000 iscritti, la Confcommercio di Trieste ha inviato un sondaggio su modulo Google sugli insediamenti di Porto Vecchio, una specie di lista dei sogni che commercianti e categorie economiche dovrebbero votare. Nei 60 ettari di area sdemanializzata 10 anni fa si propongono studi legali, notarili, agenzie di comunicazione, high tech e poi boutique di moda, negozi alimentari, prodotti biologici, caffetterie, bistrò, case vacanze, centri wellness e persino escape room per arrivare allo sgambamento cani. Una sorta di città ideale che, prendendola con sarcasmo, sembra ricordare il mondo rosa del fortunatissimo film campione di incassi dedicato a Barbie. Confcommercio sta raccogliendo gli esiti del sondaggio e non ci vogliono anticipare gli esiti. Intanto a confrontarsi in modo acceso proprio sul futuro di Porto Vecchio, il Consiglio Comunale a discutere del futuro assetto dell'area. 190 gli emendamenti presentati, 170 dall'opposizione. Siamo con Francesco Russo, PD, che 10 anni fa fu l'artefice della sdemanializzazione. Si immaginava 10 anni dopo di discutere in questo modo, con questo dibattito di quest'area? Avevamo pensato che Porto Vecchio potesse diventare quel luogo capace di invertire il trend demografico che ha fatto perdere 60.000 abitanti a Trieste, richiamare giovani, famiglie, imprese, attività industriali, e lo vediamo oggi ridotto a una piccola operazione immobiliare con alberghi di extra lusso e appartamenti da vendere a ricchi turisti austriaci che lo abiteranno per un paio di settimane. Onestamente non avevo sdemanializzato Porto Vecchio per trasformarlo in un grande porto piccolo. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Approderà in aula il 15 e il 16 ottobre la mini finanziaria d'autunno del Friuli Venezia Giulia. La legge di assestamento di bilancio è stata approvata dalla prima commissione con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario di PD e Patto per l'Autonomia Civica. Contrario anche Onsel di Open Sinistra FVG, mentre Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra e Capozzi del Movimento 5 Stelle si sono astenute. In sede di discussione generale, i democratici, segnatamente Moretti, Carli e Martinez, hanno valutato positivamente alcune misure come i 40 milioni al fondo di rotazione per l'agricoltura e i 20 per il FRIE, ma hanno anche osservato che per quanto riguarda la sanità, i circa 130 milioni stanziati contrastano con le rassicurazioni di Riccardi, che in sede di legge di stabilità riteneva gli stanziamenti sufficienti per tutto l'anno. Sullo stesso tema, l'intervento del capogruppo del patto: se all'inizio dell'anno non riusciamo a di individuare un perimetro finanziario preciso per le aziende sanitarie, ha detto Morettuzzo, è ben difficile rimettere in sesto il sistema regionale. Per Onsel l'importante sarebbe comprendere la dinamica di entrate fiscali così rilevanti e su questo punto Cabibbo per Forza Italia ha risposto che si tratta di risorse aggiuntive legate ad un lavoro fatto dallo Stato anche in una congiuntura economica non favorevole. E l'assessore Zilli, chiudendo il dibattito, ha spiegato che il Friuli Venezia Giulia segue l'andamento dei conti nazionali, che hanno visto un rilevante aumento delle entrate fiscali nei primi 7 mesi dell'anno. Sulla stessa linea il capogruppo della Civica di Fedriga, Di Bert, che ha parlato di un assestamento bis importante che va a soddisfare una serie di esigenze. Il capogruppo leghista Calligaris ha invece fatto notare che molti dei 130 milioni di nuove entrate vengono destinati ai fondi di rotazione, FRIE e agricoltura, e dunque vanno a sostegno dell'economia reale e giovane del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone adesso nuova illuminazione, arredi urbani, illustrate le iniziative per rendere più sicura la zona del Parco Querini. 44.000 euro che serviranno a rendere più sicuro Parco Querini, area verde all'ingresso della città, nei pressi della stazione ferroviaria, biglietto da visita per chi arriva a Pordenone. L'intervento è reso possibile grazie a fondi ministeriali e fa parte di un protocollo per la sicurezza urbana siglato oggi in prefettura. Il prefetto di Pordenone, Michele Lastella. È un'opportunità che ci è stata offerta dal Ministero dell'Interno con il Fondo Unico di Giustizia. Il comune di Pordenone ha avuto la possibilità di poter partecipare con un progetto che è stato ammesso in finanziamento. Il progetto consiste nel miglioramento dell'impianto di illuminazione e dell'efficientamento dell'impianto di illuminazione di Parco Querini, un parco adiacente alla stazione ferroviaria dove in passato c'è stato qualche episodio di spaccio che prontamente le forze di polizia hanno debellato. L'intervento prevede l'efficientamento e il potenziamento dell'illuminazione pubblica all'interno del parco, due nuovi punti luce, la predisposizione di una postazione di videosorveglianza e nuovi arredi di verde urbano all'ingresso di via Mazzini, opera di abbellimento già iniziata con GEA e volta a migliorare un'area critica della città. Alberto Parigi, vice sindaco reggente di Pordenone. Aggiungiamo questo tassello che riguarda l'illuminazione pubblica del Parco Querini, ma anche l'ingresso della città, l'adiacente via Mazzini, con un intervento di arredo urbano riguardo il verde. Serve anche questo per garantire la sicurezza, cioè la riqualificazione della città, rendere i luoghi più belli, più illuminati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un incidente dall'esito mortale si è verificato poco prima delle 11.30 nel tratto autostradale a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro al chilometro 480 in direzione Trieste. Secondo le prime informazioni, un'auto ha tamponato un auto articolato fermo nella piazzola di sosta sulla corsia di emergenza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto al momento dell'incidente, non c'erano infatti condizioni di criticità al traffico e alla circolazione scorreva normalmente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Udine, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Ancora cronaca, 286 kg di ricci di mare pari a oltre 5.000 esemplari privi della documentazione relativa alla tracciabilità sono stati sequestrati dal personale del nucleo pesca della Capitaneria di Porto di Trieste in collaborazione con il comando della Guardia di Finanza di Muggia. I ricci erano a bordo di un veicolo in transito a Pesek sul Carso Triestino diretto verso l'Italia meridionale. Il loro valore complessivo ammonta a circa 3.200 euro. Il carico è ora fermo al mercato ittico in attesa della decisione dell'autorità competente. Al trasgressore è stata comminata una sanzione di 1.500 euro. Il controllo che ha portato al sequestro faceva parte dell'attività di contrasto alla pesca illegale del 10° centro di controllo area pesca all'interno della regione per la salvaguardia delle risorse ittiche e la vigilanza sulla filiera della pesca marittima. Nei primi sette mesi del 2024, nella provincia di Udine, le nuove iscrizioni all'albo artigianale della categoria trattamenti estetici hanno raggiunto un record, con 66 nuove realtà, di cui 53 sono start-up nate da zero. Tra queste nuove imprese, la metà si dedica all'onicotecnica, ovvero all'applicazione e decorazione di unghie artificiali, conosciuta come nail art. Questo dato emerge dal report dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Udine. Nel medesimo periodo le iscrizioni all'albo artigianato provinciale sono state 634, il numero più alto degli ultimi 9 anni, con un incremento di oltre 80 unità rispetto alla media delle iscrizioni registrate nello stesso periodo dell'ultimo decennio. Il settore con il maggior numero di iscrizioni è quello edile, con 209 nuove aziende, mentre al secondo posto si posiziona il settore dei trattamenti estetici. Nella sede della soprintendenza di Udine sono stati illustrati questa mattina i risultati delle ultime ricerche archeologiche nelle acque di Grado condotte dall'unità subacquea dell'Ateneo Friulano. Un porto diffuso che si estendeva tra l'antica Aquileia di epoca romana e la città di Grado, che non per nulla in latino significa anche scalo. Era questo il paesaggio che si presentava circa 2000 anni fa, un'area di scambio commerciale marittimo e lagunare per quello che all'epoca era il punto più a nord raggiungibile via nave di tutto il Mediterraneo. Uno scenario al centro delle ricerche condotte dagli archeologi subacquei dell'Università di Udine nel progetto chiamato Aquileia Waterscape, durato 2 anni, i cui risultati sono stati presentati a Udine. Una ricognizione per ricostruire seguire l'Aquileia città di mare del passato. Il coordinatore scientifico delle ricerche, Massimo Capulli. Abbiamo indagato sia relitti, quindi resti di imbarcazioni che trasportavano le merci da e verso Aquileia, sia strutture portuali. Quindi diciamo che è stata una ricerca ad ampio spettro, di cui incominciamo ad avere alcune, chiamiamole, tessere di mosaico. Tra i punti fermi, l'individuazione della rotta privilegiata tra Grado e Aquileia, oltre alla continuità nel tempo della vitalità del porto fino a epoche tardo-antiche. Tra i siti più interessanti della ricerca c'è la Piere di San Gottardo, struttura che si trova sott'acqua a poco più di un chilometro da Grado e indagata di nuovo a 90 anni dalle prime esplorazioni, 40 metri di lato con blocchi enormi. Che cosa fosse non lo sappiamo con certezza. Al momento io propenderei per una struttura destinata a sorreggere un faro o un porto rifugio, qualcosa che fosse di aiuto ai naviganti che qui arrivavano. La ricerca è stata anche occasione per sperimentare nuove tecnologie come software di intelligenza artificiale per i rilievi fotografici e il catamarano con sonar a scansione laterale. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Contraria all'istituto del divorzio, ma non ai fedeli divorziati. Da tempo la Chiesa triestina organizza dei percorsi di riavvicinamento per i credenti che hanno interrotto legalmente il vincolo matrimoniale, ma che vogliono restare nel seno della comunità cattolica. Sentiamo. Essere credenti e al contempo divorziati e riaccompagnati o risposati con la persona che si ama davvero, una condizione in cui si trovano tanti cattolici anche nella nostra società secolarizzata. A Trieste la diocesi organizza percorsi di riavvicinamento alla Chiesa per queste persone sulla scorta dell'esortazione Amoris Laetitia di Papa Francesco. Monsignor Roberto Rosa, vicario pastorale della diocesi di Trieste. Si tratta di ascoltare queste persone, di accoglierle e di accompagnarle in un cammino di fede e cercare quello che è il bene possibile, quindi anche un'integrazione nella vita delle comunità cristiane, quindi arrivare anche a questo, alla funzione di padrino, anche di catechista. Pur restando ferma la condanna del divorzio in sé, quello che la Chiesa sta cercando faticosamente di lasciarsi alle spalle è il giudizio sui divorziati. Tante volte non si sa la storia delle persone, ogni persona ha la sua storia, le sue vicende, le sue sofferenze e quindi è giusto che ci sia un accompagnamento discreto, certamente, ma anche che ci sia un'apertura da parte delle comunità cristiane. E Monsignor Rosa ricorda un episodio che lo ha particolarmente toccato. Un vescovo, che se non sbaglio era messicano, il quale aveva raccontato un episodio accaduto nella sua diocesi, dove un parroco, dando la prima comunione a un bambino che aveva i genitori divorziati, è andato dal papà, ha spezzato l'ostia e è andato a portare metà dell'ostia al papà, che era con la seconda moglie. E quell'episodio è stato accolto con un applauso. Ecco. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un giubileo locale sicuramente di breve durata rispetto a quello universale del prossimo anno è quello di Ara di Tricesimo concesso da Papa Francesco per una particolare ricorrenza. Arrivando ad Ara di Tricesimo ci accoglie un grande striscione giallo sulla chiesa. Nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo è stato indetto un giubileo straordinario. Un piccolo anno santo, ma della durata di 8 giorni, durante i quali si prega, si partecipa alla Via Crucis, all'unzione dei malati, ci si ritrova, a messa, si ricordano i defunti, si rinnovano le promesse di matrimonio, ci si confessa e si può ottenere l'indulgenza plenaria. Un momento per valorizzare la fede e l'impegno parrocchiale di questa piccola comunità di circa 600 persone. Un motivo di salvezza per me e per la mia famiglia. L'idea è di Don Dino, scrive alla penitenzieria apostolica che ha la competenza sulle indulgenze in Vaticano in occasione del centenario della posa della prima pietra della Chiesa. Don Dino Bressan. Onorando in questo modo la Chiesa, onoriamo anche tutta la gente che l'ha voluta, l'ha costruita, ha faticato e qui erano tempi di grande povertà e quindi era un modo anche per dire grazie alla gente. Ecco, e poi per trasformare questo anniversario in un momento spirituale, in un momento di grazia, in un'occasione per ringiovanire, rinverdire la fede. Poi, a metà settembre, arriva la risposta, un decreto in latino, il tempo di tradurlo e di realizzare. Il Santo Padre ha concesso un tempo di grazia esclusivo per la parrocchia. Sono soprattutto stupito perché sono quelle occasioni nella vita in cui rimani stupito e ti meravigli e ringrazi il Signore per questo dono che ti viene fatto. Ara di Tricesimo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12.45, uno sguardo al meteo, cielo coperto sulla regione, la temperatura è registrata alle 11. Trieste 19 gradi e 5 decimi, Gorizia 17 e 5 decimi, Udine 16 e 5 decimi, Pordenone 15 gradi e 5 decimi. Tarvisio 14, Tolmezzo 12, Piancavallo 11, Sappada 10, Forni di Sopra 9 gradi e 5 decimi, Monte Lussari 9 gradi e 5 decimi, Monte Zoncolan 8, Grado 19 e 5 decimi, Lignano 19 gradi. Le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: probabili piogge in genere moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense su prealpi, specie sulle prealpi carniche e il Piancavallo, possibili temporali, specie verso sera nella notte al passaggio del fronte. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio sera. Sulla costa soffierà scirocco moderato, anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate sulle coste e poste. Vento forte da sud anche in quota. Domani cielo in prevalenza coperto, sui monti variabile o nuvoloso sulle altre zone, con più sole verso la costa e sul Tarvisiano. Probabili rovesci temporali sparsi con piogge localmente abbondanti in montagna e sulle zone orientali, moderate altrove, più probabili di notte e al mattino. Sulla costa nella notte soffierà temporaneamente libeccio moderato, poi in attenuazione. Considerate le previsioni meteo per i prossimi giorni, la regione ha dichiarato lo stato di preallarme per oggi e domani. Allertate le squadre della Protezione Civile regionale, pronte a intervenire in caso di emergenza. Da mezzogiorno di oggi alla stessa ora di domani l'allerta meteo è arancione per le Prealpi, la Carnia e il Pordenonese per possibili diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità, innalzamento dei corsi d'acqua e possibili mareggiate sulle coste esposte. E siamo alla cultura e agli spettacoli, presentata poco fa la stagione 2024-2025 del nuovo teatro immersivo Paolo Maurensig di Feletto Umberto, che inizia così la sua attività. Sentiamo. C'è un nuovo teatro in Friuli Venezia Giulia che si appresta a partire con la sua stagione. È il teatro Maurensig di Feletto Umberto in comune di Tavagnacco. Ci parla della stagione Claudio Mansutti, il suo direttore artistico. Un teatro immersivo, quindi con nuove tecnologie, già dal foyer ma anche in sala si potrà essere immersi in immagini, musiche. Un teatro di tutti in un matrimonio con il Bondi Colugna. Ci saranno anche alcuni spettacoli del Bondi Colugna, però abbiamo avuto la gestione di questo teatro e quindi assieme a tutta una serie di enti che ha deciso di investire, Area Rea, l'Associazione di Memute, l'ERT, l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Bon, riusciremo a fare un cartellone di circa 30 spettacoli in cui veramente ci saranno tutti i generi, musicale, jazz, pop, ci sarà il teatro, l'abbonamento di teatro, il teatro Furlan. Alcune date da non perdere? Beh, io direi è difficile scegliere, però andiamo dalla prima, perché l'inaugurazione in cui si verrà dato il nome Paolo Maurensig, con parole, musica, per festeggiare Maurensig, concludendo con la settima di Beethoven. Quindi inviterei tutti intanto il 17 ottobre e a guardare il sito della Fondazione Bon per scoprire veramente tutti gli spettacoli. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Nell'ambito del progetto Zigaina 100, anatomia di un'immagine, il Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli ospita oggi alle 19 la proiezione del cortometraggio Il sogno di una cosa, una versione inedita sulla morte di Pierpaolo Pasolini, sostenuta da Giuseppe Zigaina, suo amico fraterno. La proiezione sarà introdotta dal regista Leonardo Ferrari Carissimi in dialogo con Marco Puntin di Co Buonaventura. Il racconto, dai forti tratti documentaristici de Il sogno di una cosa, si articola da una parte verso un'accurata ricerca e selezione di materiale di repertorio, dall'altro è costruito da interviste e conversazioni di persone che hanno avuto un rapporto privilegiato, anche di contrasto, con Pasolini. Il progetto Zigaina 100 è promosso dal Comune di Cervignano del Friuli, sostenuto dalla Regione e dall'ERPAC con il patrocinio del Ministero della Cultura. A Trieste invece un viaggio nel tempo alla scoperta di come un gruppo di imprenditori triestini, assieme al giovane James Joyce, diede vita al primo cinema in Irlanda, il Cinema Volta, nel 1909. Lo racconta il film Kino Volta, il cinema Volta di Martin Turk, che sarà proiettato al Teatro Miela questa sera alle 18 e poi alle 20:30. Il regista Turk, Daniel Malalan, Fulvio Rogantin e Paolo Venier saranno presenti alla proiezione delle 20:30. Organizzano l'associazione Casa del Cinema di Trieste in collaborazione con Barcolana 56 e Kino Atelier. Esce postumo il romanzo scritto da Alessandro Talotti, atleta olimpico di salto in alto friulano, scomparso prematuramente nel 2021 per tumore all'intestino. Aveva solo 40 anni. Giallo le Olimpiadi di Parigi è il titolo del romanzo pubblicato da Gaspar Editore e che è stato presentato stamane nel municipio di Lignano Sabbiadoro. Racconta un giallo ambientato durante i giochi olimpici parigini che si sono svolti quest'estate. Protagonista è il centometrista Livio Marosa, personaggio frutto della fantasia di Talotti. Ne parliamo con l'editore Marco Gaspari. Non è tanto usuale che un atleta scriva un romanzo giallo, vero? È una cosa un po' particolare. Effettivamente è una cosa abbastanza inusuale. Ciò denota tuttavia una grande attenzione di Alessandro in tutti i campi, non solo nello sport ma anche nei vari interessi che egli aveva. Questo romanzo lo tenne occupato una volta che scoprì la malattia e si dedicò corpo e anima e fino all'ultimo appunto cercò di portarlo a termine e di ultimarlo. Il romanzo tiene, è un ottimo stile e denota una grande attenzione dell'atleta, oltre che dell'uomo. Deve essere sempre un po' difficile maneggiare il materiale scritto da una persona scomparsa poi così prematuramente. Com'è stata la sua esperienza in questo senso? Effettivamente il libro probabilmente non era stato neppure riletto da Alessandro e quindi con un continuo confronto con la sua moglie abbiamo provveduto a cercare di sciogliere quei nodi letterari che c'erano e con un ottimo lavoro di editing secondo me siamo riusciti a dare il significato che egli intendeva a tutti i vari passaggi del romanzo, quindi effettivamente è stato un impegno intenso e anche importante perché la prima cosa che ho pensato è stata proprio quella di dare poi al figlio quando sarà grande l'opportunità di leggere un romanzo scritto dal padre che rispondesse esattamente alle sue idee di letteratura. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, nella saletta della Hammer Editori di Via della Maiolica, si inaugura la mostra Cani, Gatti e, una collettiva dedicata al mondo degli animali domestici e non, che vede la partecipazione di 16 artisti triestini contemporanei, diversi tra loro per visione, stile e tecnica. Presentazione a cura di Febo Derigo, della Torre di Valvasina, alle 17:30. E siamo allo sport, il basket, seconda vittoria per Web Gesteco Cividale nel campionato di A2, che ieri sera in casa ha battuto Brindisi 79-70. Ospiti in vantaggio di 8 punti, ma dalla panchina i Ducali trovano sempre un'ottima energia. Avanti a metà della partita la squadra di Pilastrini rimane in testa per tutto il resto del tempo. La Gesteco mantiene anche il vantaggio dalla lunetta, impone ritmo e contatti. Accesissimo invece il finale, Mastellari, migliore in campo, segna una tripla pesante dall'angolo per il più 6, poi il capitano Rota recupera un pallone vagante e subisce l'antisportivo a 2:25 dalla fine. È il colpo del KO psicologico per Brindisi. Cividale sale a quota 4 punti in classifica. Ascoltiamo il commento dell'allenatore dei Ducali, Stefano Pilastrini. Noi abbiamo vinto veramente con la forza di squadra al 100%. Una delle poche volte che subiamo al rimbalzo, oggi al rimbalzo abbiamo fatto tanta fatica. Credevo avessimo un attivo più grande dalle palle recuperate alle palle perse, ma statisticamente non è così e soprattutto abbiamo vinto facendo 15 tiri meno di loro, che insomma è abbastanza difficile che questo succeda, riuscire a vincere quando da quel punto di vista lì fai molta fatica. Abbiamo tirato un po' più di tiri liberi, però è stata una partita, una battaglia veramente dura. Siamo sempre stati attaccati alla partita, quasi sempre davanti. Dopo l'inizio del secondo quarto abbiamo girato, siamo stati sotto forse anche di 10, di 8 di sicuro. E poi abbiamo girato con mettendo un po' a posto la difesa e costruendoci un po' meglio i tiri. Appuntamento a Tarvisio per le squadre A, B e C di combinata nordica maschile e femminile che si ritroveranno per un raduno di preparazione tra giovedì 10 e domenica 13 ottobre. Il direttore tecnico, Ivo Pertile, ha convocato per lo stage anche atleti regionali, il rientrante Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Greta Pinzani e Ludovica Dalbianco. C'è anche il gemonese Giuseppe Vidoni nella spedizione himalayana composta da 7 alpinisti italiani, ora diretti in Nepal. L'obiettivo principale è scalare il Kimshung, una cima ancora inviolata che raggiunge una quota di 6.781 metri nel massiccio del Langtang. Il gruppo di guide alpine tenterà inoltre l'ascesa al vicino Lantanglirung, 7.221 metri, montagna simbolo dell'alpinismo himalayano. La spedizione italiana è atterrata a Kathmandu. Ed è tutto per questa edizione. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini, per la parte tecnica Viola Romanese, in regia Carlo Morello e Marco Ferrito. Alle 12:55 da Andrea Marusic e Rita Miccoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.